11:11 minuti in questo martedì 16 giugno prosegue la mattinata informativa di Radio Blackout e come ogni martedì mattina torna in onda l'appuntamento con Parole Ribelli, la trasmissione del collettivo universitario autonomo di Torino. Per questa puntata sarò da sola a tenervi compagnia fino alle 12:45, quindi do un buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout e vi ricordo come sempre anche i contatti per scrivere nel corso delle trasmissioni, quindi 346-667-3263 per mandare sms al telefono cellulare, altrimenti 011-249-5669 il numero del telefono fisso. See, while the scene was getting flooded like a fucking Bible stream, I was on my 9-to-5, steady, busy, grinding mean, learning ways to earn a wage, pursuing pay and finding grain, and once I earn my stacks, I burn, relax, and take some time to sleep. You think I'm sitting around trifling, that's fine to me, cause I'm no vegetable, I just take time to be my lima bean, moving at a steady pace, ace, I have the right to be, cause when you in slow motion, even 50 feel like hyperspeed. So I'ma push the gas and kinda slow, won't see me crashing, steady smashing down the abs like a pro, completely macking, acting like they have it lavish, they don't know. That's why I'm blasting through the average asshole, acting like a hoe. There they go, always flashing all their headlights, thinking that they just might rush and get their bread right. Floating around like broken clowns, acting all big head type, but most of them never touch the fucking cumulus. Lead kite, so I ain't another drop in the bucket, or another food scrap on the rug. You ain't gonna get rid of me that easy. Sit and watch them all scatter like bugs. There they go, there they go, there they go, there they go, there they go, there they go, there they go, there they go, there they go, there they go. Let the punishers there, quietly. So I ain't another drop in the bucket, or another food scrap on the rug. You ain't gonna get rid of me that easy. Sit and watch them all scatter like bugs. Allora 11:17, per quest'oggi iniziamo con qualche minuto di ritardo, ma abbiamo ceduto volentieri insomma un po' di spazio all'info di questa mattina, in particolare alla testimonianza da Ventimiglia su quanto sta accadendo nelle ultime ore con lo sgombero dei migranti. Mi sembrava insomma una testimonianza preziosa e fondamentale per quanto riguarda le notizie di quest'oggi, quindi insomma iniziamo con qualche minuto di ritardo ma senza grosse preoccupazioni. E allora vado a presentarvi brevemente gli argomenti che affronteremo quest'oggi in questa puntata di Parole Ribelli. Inizieremo con un po' di rassegna stampa e di aggiornamenti per quanto riguarda il contesto locale, in particolare sull'Università di Torino e la recente proposta dell'Università di aumentare le tasse a partire dal prossimo anno, con aumenti dai 100 ai 300 euro a testa, una proposta che in parte era già nell'aria ma che è stata un po' come dire ufficializzata a metà della settimana scorsa. Andremo insomma un po' a commentare questa notizia, anche a vedere quali sono i prossimi appuntamenti per provare a contrastare questo provvedimento. E sempre in materia di formazione, a livello però nazionale, continueremo a parlare dell'opposizione al DDL sulla buona scuola e in particolare del blocco degli scrutini che va avanti ormai da diversi giorni in tutte le scuole italiane, che ha raggiunto livelli di partecipazione e di adesione diciamo comunque significativi, soprattutto in questa fase politica. Quindi andremo a dare appunto qualche aggiornamento, qualche dato su questa protesta e vi farò sentire anche un audio che fa un po' il punto della situazione. E per quanto riguarda poi sempre il contesto nazionale, però in ambito non prettamente universitario, vedremo se riusciamo a fare una diretta da Roma con i compagni e le compagne che questa mattina sono in presidio in concomitanza con una nuova udienza del processo per la giornata del 31 ottobre di 2 anni fa, che vede imputati appunto diversi compagni e compagne, quindi ci faremo magari dare qualche aggiornamento. Questo è più o meno tutto, ovviamente i microfoni della radio sono sempre aperti per eventuali aggiornamenti in diretta. Vediamo anche sulla vicenda di Ventimiglia se ci sono appunto aggiornamenti nel corso della mattinata, eventualmente andremo a fare nuove dirette. Per ora questo è quanto, vi lascio ancora a un pezzo musicale, poi iniziamo con la puntata. Yeah. Forse sei tu che sei matto. Non conosci Frizzi il gatto, non conosci Bassi. Connessione dal giorno uno, baby, check it. Viviamo vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci bastano un, o magari uno, per farci resistere al numero uno. Era un sogno da ragazzo, ma mi accorgo che già molte cose sono andate in fumo. Forse l'età non mi permette più di essere oggettivo sui fatti. Ricordo che eravamo a malapena ragazzi. Quando mi concentro e penso a quello che abbiamo visto negli anni, rido un po' triste ma un po' felice per quando mi passate davanti. Ogni cosa a suo tempo mi dicevate, ma alla fine non ho mai fatto quello che mi hanno detto gli altri. Come brilli in questo cielo non c'è più spazio. Erano stelle sul nero ma adesso è tutto bianco. Non è che faccio il nostalgico, so che quando canto un classico italiano sul tuo schermo come Borotalco. Giù con Frizzi il gatto, tipo dal 9-4, passati dal 9-50 Tractor. Abbiamo visto giovani fregati dal contratto, indipendente Paco, e grandi passare da un grande palco, un 4x4. E non intendo il fuoristrada, capisci ogni mia rima se conosci la masnada. Le botte fuori dai locali dopo una serata, le lotte coi gestori dei locali per i soldi dopo una serata. Vite distratte, sintesi piatte del modo che abbiamo di porci. Se ti disintegri d'arte, metti da parte l'orgoglio, poi non te ne accorgi. Disadattati col suono più scuro, scrivo di fatti che non sa nessuno. E ci bastano un, o magari uno, per farci resistere al numero uno.

Allora, 11:27 sulle libere frequenze di Radio Blackout, sempre all'ascolto di Parole Ribelli. Iniziamo con la puntata di oggi, andando un po' a commentare una notizia di questi ultimi giorni che riguarda il nostro Ateneo, l'Università di Torino. Stiamo parlando in particolare della proposta di aumentare le tasse a partire dal prossimo anno accademico, che è un po' trapelata appunto dalle mura del rettorato negli ultimi giorni, per quanto appunto l'amministrazione universitaria tenda ancora un po' a tentennare, a smentire, anche se la notizia è ormai palese. C'è da dire che un probabile aumento delle tasse universitarie era già nell'aria, in particolare ne era stato chiesto conto all'attuale rettore Aiani in occasione della prima giornata di mobilitazione seguita alla chiusura di Palazzo Nuovo a causa dell'amianto. Appunto, durante questo confronto piuttosto acceso col rettore, alcuni studenti avevano chiesto conto ad Aiani di questa eventuale proposta, sottolineando anche quanto fosse come dire fuori luogo a fronte della situazione in cui versava l'Ateneo a partire da quel giorno, con appunto la chiusura di Palazzo Nuovo. E il rettore all'epoca, ma si parla appunto di poche settimane fa, smentì tutto quanto, invitando anzi gli studenti a trovare una sua dichiarazione in cui si affermasse appunto di questo aumento, e dicendo che in ogni caso non dipendeva da lui. Ecco che solo qualche settimana dopo però vediamo smentite tutte queste false promesse, e la proposta parla appunto di un aumento di almeno 100 euro per tutti gli studenti dell'università, con rincariche però potrebbero arrivare fino a 300 euro a testa. Vado a darvi innanzitutto qualche dato rispetto appunto alla contribuzione studentesca in questi ultimi anni nell'Università di Torino, e stando appunto ad alcuni dati trovati online, a partire dal 2008 ad oggi si parla di un aumento di circa l'8% nelle tasse universitarie per quanto riguarda la prima rata, che è quella uguale per tutti e che tutti gli studenti pagano, mentre per quanto riguarda invece la seconda rata, che è differenziata a seconda dell'ISE, si parla di un aumento di ben il 77,5%. Quindi in media le tasse sono aumentate di più di quasi del 60% nel giro di pochi anni. Ed è interessante anche notare come l'incremento si sia riversato soprattutto sulla seconda rata, dove appunto è più difficile mostrare appunto questo aumento, perché appunto viene ripartito in maniera diseguale a seconda delle fasce di reddito, mentre un incremento sulla prima rata che tutti gli studenti pagano sarebbe decisamente più palese e quindi anche più difficile da far passare. Quindi anche in questo stanno un po' le manovre di gestione dell'università, cercando un po' di infilare provvedimenti qua e là senza farlo notare troppo, ma tant'è, un aumento c'è stato e anche bello consistente. Quello che cambierebbe con questa attuale proposta sarebbe appunto il fatto che questo rincaro ricadrebbe su tutti gli studenti in questo caso, e che quindi sarebbe appunto decisamente evidente. Un punto tra l'altro particolarmente problematico di questa proposta sarebbe quello di far pagare un rincaro ancora più elevato agli studenti fuori corso, che si troverebbero a far fronte in alcuni casi addirittura a un rincaro del 100% delle tasse universitarie. Quindi arriveremo a parlare di cifre veramente spropositate, e questo appunto è significativo, perché rientra appieno nel paradigma attuale dell'università italiana, tutta improntata appunto alla competitività, al merito e a tante altre belle parole che abbiamo sentito ripetere più volte in questi anni dai vari ministri che si sono succeduti. E appunto questa proposta di far pagare di più gli studenti fuori corso è perfettamente coerente con questo modello. Quindi chi appunto rimane indietro per motivi vari, che possono semplicemente essere anche il fatto di essere studenti lavoratori e quindi di avere meno possibilità, meno tempo da dedicare allo studio rispetto ad altri, vengono considerati a tutti gli effetti una zavorra di cui sbarazzarsi in questa corsa competitiva degli Atenei, che appunto potranno permettersi solo di mantenere chi sottostà ai ritmi da esamificio che vengono attualmente imposti, mentre per tutti gli altri ci sarà una progressiva esclusione tramite appunto l'innalzamento delle tasse. C'è da dire che appunto questa proposta di aumento che è stata avanzata da Iani di per sé non è insomma qualcosa di particolarmente diverso da quanto sta avvenendo a livello nazionale, ma appunto segue una tendenza ormai consolidata da alcuni anni e in particolare va nella direzione di creare un'università sempre più elitaria e quindi di far ritornare un discorso di classe dentro le mura universitarie, per cui chi potrà permettersi di continuare a studiare potrà farlo, per tutti gli altri non ci sarà spazio dentro i nostri atenei. E questo appunto è il messaggio che sembra arrivare da Iani, così come da altri rettori italiani che costruiscono un'università di pochi e per pochi. Quindi questo è l'obiettivo insomma palese di questo tipo di introduzioni. C'è da dire anche che la questione della retribuzione, della contribuzione studentesca si inserisce anche all'interno di tutti quei meccanismi di valutazione di ranking degli atenei italiani che è stata inserita da alcuni anni e che viene affidata ad enti privati come l'ANVUR, appunto questa agenzia di valutazione nazionale, che tengono conto appunto di tutta una serie di parametri degli atenei, tra cui anche appunto il livello di pagamento delle tasse. E a questo proposito non è un caso che l'Università di Torino sia stato uno dei primi atenei che ha deciso di sottoporsi appunto alla valutazione dell'ANVUR e che appunto a partire dal prossimo semestre, quindi dall'autunno, vedrà appunto questi agenti dell'ANVUR, questi valutatori aggirarsi per le nostre sedi universitarie per poi stilare appunto una valutazione del nostro ateneo. Questa è un'iniziativa che l'Università di Torino sta pubblicizzando con grande enfasi, ma che appunto si inserisce in tutto questo tentativo di creare atenei di serie A e di serie B appunto sulla base di una serie di valutazioni, e che quindi deciderà chi può concorrere appunto a queste università dell'eccellenza, che poi di fatto vuol dire un'università per pochi, e chi invece verrà relegato appunto ad un ateneo di serie B con un sapere svalutato in cui parcheggiare chi non può permettersi di accedere alle università migliori. Per quanto riguarda in particolare l'Università di Torino, c'è da dire che questo provvedimento arriva in un momento sicuramente particolare e per questo suona ancora più sgradevole alle orecchie degli studenti universitari. Credo che appunto un aumento delle tasse non sia insomma qualcosa che viene ben accolto in nessun caso, ma se pensiamo a quello che è la situazione attuale dell'Università di Torino diventa ancor più appunto sgradevole, con appunto Palazzo Nuovo chiuso ormai da diverse settimane e con la prospettiva di non riaprire perlomeno fino all'autunno, ma anche qui è difficile insomma avere qualche informazione certa. Quel che è certo è che per adesso appunto ci sono migliaia di studenti che sono stati letteralmente buttati in mezzo alla strada da un giorno all'altro, senza più un posto dove poter seguire le lezioni, senza poter più accedere a diverse biblioteche che dentro Palazzo Nuovo hanno sede, che ad oggi risultano tuttora inaccessibili in un periodo ormai di sessione esami. E appunto con nessuna garanzia, nessuna certezza, nessuna risposta che è stata data dall'amministrazione universitaria rispetto a quale sia il reale rischio che è stato corso in tutti questi anni con l'amianto a Palazzo Nuovo e quello che potrà accadere nei prossimi mesi. Tra l'altro questa, insomma, il vaso di Pandora che si è scoperchiato con la vicenda di Palazzo Nuovo ha fatto emergere che sono ben 15 le altre sedi universitarie torinesi che andrebbero controllate appunto per la questione dell'amianto. Quindi questo è un po' il quadro in cui Iani ha avuto la faccia tosta di fare una proposta di questo tipo. La proposta appunto va nella direzione di diventare operativa a breve. Per la prossima settimana è già stata lanciata una giornata di mobilitazione per provare a contrastare questo decreto, anche se poi ovviamente la partita si giocherà anche in autunno, nel momento in cui sarà ora di versare l'annuale contributo. Quindi appunto ci auguriamo che la partita sia ancora aperta per un bel po' e che questo provvedimento possa essere contrastato. Sicuramente sarà anche una buona occasione per iniziare a parlare di questioni più ampie, come quella della riforma della buona università, che appunto dovrà essere discussa a partire dall'autunno e di cui abbiamo già parlato alcune volte da questi microfoni in queste ultime settimane, appunto tutte queste modifiche, tutte queste riforme promosse da Iani si inseriscono perfettamente nel disegno renziano di università che prosegue il cammino intrapreso dai suoi predecessori, dalla riforma Gelmini a quella Profumo e così via. Quindi saremo appunto a vedere. Quel che è certo è che quella di Iani non è un provvedimento tecnico né una necessità, perché appunto, come dicevamo, la contribuzione studentesca è già aumentata notevolmente in questi anni, ma è una misura a tutti gli effetti politica, quindi politica anche dovrà essere la risposta che dovrà essere messa in campo contro questa imposizione. Quindi appunto questo è un tema su cui continueremo ad aggiornarci nelle prossime settimane. Intanto volevo commentarla brevemente per inquadrarla appunto in quello che è a tutti gli effetti, e nelle prossime puntate speriamo di poter parlare anche delle mobilitazioni che si opporranno a questo provvedimento. Adesso facciamo una pausa musicale e poi proseguiamo con la puntata. Il cuoriato puro, un pezzo del 97, nella fanfila stroca, uno scioglilingua. Fate c'è anche voi, yeah. Il più mordio non ammette classi, è il soggetto crebbe lento nella critica prassi. Io mi innalzerei immolando dei my bitch. Il severo padre della degenerò figli senza vergogna. Per i patetica corte pose la morte sulle sue insegne. Crebbe col sudore negli anni forzando recidi di foggia ateniese. Quando distrutte da buio sono state pigliando consigli che cratete in tese. Le pubbliche effetti militari fornendo riparo e tottoglio coscienze. Patetico regno dei morti vorrebbe porticcio ponendo partenze. Il tempo ricuse che accusa prefigge edifici sempre demonate. Sono i mercati che grossano a botte, loro più grossi porcelli da latte. Vitali pagani con tutti gli ordini di tipoti di franchigia. Soffrono anni svevettiva teorici e logi delle calipigie. Tutti però commentatori la vita e la morte non furono più cruccio. Strutture cresciute per ticcio, cresciute per forza d'impiccio. Metà che diede mai noia fusare mannaia sul pelle via Fano. C'è chi da d'oggetti sui geni l'imposto sovrano che perde il suo trono. Ma stati schieniti e puniti da chi vi ora miti già morti nel senso. Pragmatico andare preparato già mare sputando ragioni fuggite di censo. I servi che trovano strappe sagaci, le storie salaci con opere intraci. L'ingata ristorca le merito feci rendendo felici più cilici che dice. Sopra il piacere tradisce promesse, la storia che disfaccio che il mondo tesse. Ma si rompesse chi disse corresse, che pensa pagasse chi appena potesse. La paura cresce dentro gli spento, il sentiero va da Atene a Corinto. I pastori non ne urbo la saliva del demiurgo, lavo e curvo nel cinismo convento. Corrido retorico topica, la cera critica d'anomalia. Barbello gnostica mia, giocaste la sua fantasia. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Impura, cannibalismo sottura. Non sei cultura, la natura del primordio non ammette classi. È il soggetto crepellato nella critica prassi. Io mi innalzerei, impolando te sulle logiche che Diogene bum bum bum. La natura del primordio non ammette classi. È il soggetto crepellato nella critica prassi. Io mi innalzerei, impolando te sulle logiche che Diogene bum bum bum. Questo è antiquariato puro, un pezzo del 97, nella fanfila stroca, uno scioglilingua. Fate c'è anche voi, yeah. Il primordio non ammette classi, è il soggetto crebbe lento nella critica prassi. Io mi innalzerei, immolando dei my bitch. Il cerbero padre della degenerò figli senza vergogna. Per i patetica corte pose la morte sulle sue insegne. Crebbe col sudore negli anni forzando recidi di foggia ateniese. Quando distrutte da buio sono state pigliando consigli che cratete in testa. Le pubbliche effetti militari fornendo riparo e tottoglio coscienze. Patetico regno dei morti vorrebbe porticcio ponendo partenze. Il tempo ricuse che accusa prefigge edifici sempre demonate. Sono i mercati che grossano a botte, loro più grossi porcelli da latte. Vitali pagani con tutti gli ordini di tipoti di franchigia. Soffrono anni svevettiva teorici e logi delle calipigie. Tutti però commentatori la vita e la morte non furono più cruccio. Strutture cresciute per ticcio, cresciute per forza d'impiccio. Metà che diede mai noia fusare mannaia sul pelle via Fano. C'è chi da d'oggetti giudini l'imposto sovrano che perde il suo trono. Ma stati schieniti puniti da chi vi ora miti già morti nel senso. Pragmatico andare prepara già mare sputando ragioni fuggite di censo. I servi che trovano strappe sagaci, le storie salaci con opere intraci. L'ingata ristorca le merito feci rendendo felici più cilici che dice. Sopra il piacere tradisce promesse, la storia che disfaccio che il mondo tesse. Ma si rompesse chi disse corresse, che pensa pagasse chi appena potesse. Pura cresce dentro gli spento, il sentiero va da Atene a Corinto. I pastori non ne urbo la saliva del demiurgo, lavo e curvo nel cinismo convento. Anacorrito retorico topica, la cera critica d'anomalia. Barbello gnostica mia, giocaste la sua fantasia. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Emancipaletica, lotica, ludica, pedica, latica, pratica. Impura, cannibalismo sottura. Non sei cultura, la natura del primordio non ammette classi. È il soggetto crepellato nella critica prassi. Io mi innalzerei, impolando te sulle logiche che Dio immagine boom, boom, boom. La natura del primordio non ammette classi, è soggetto crepellato nella critica prassi. Fatti chiari, miscia corta, governo porta a porta, come la Folletto, che ha fumato il cioccolato, che ha rubato nel cassetto, lo zecchino, oh no, rosicchiate il contorno, federate il porto con un santo volto, pellegrini digitali, extraterrestri dentro casa, stupidi, stupidi da mille colori, alla ricerca degli antichi sapori, in tempi non sospetti, tra pizzi e merletti, giudici e confetti, il gioco è finito, le porto i miei sospetti, all'ombra della nulla tenenza, la paura sale con violenza, precari del mondo uniti per l'indipendenza, monopolio di un manipolo che ci divide nelle nostre vite, uomini di storia ardite, come distruttori con l'amore dei cuori, per un giorno di gioia cento di dolori, allerta, allerta, status killer, allarme, allarme, status killer, status killer, allerta, allerta, antifa, antifa, antifa, antifa, allarme, allarme, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, antifa, antifa, allerta, allerta, antifa, antifa. Musica dal basso, fuori dalle logiche del profitto, rap militante, alimentiamo il conflitto, nessun quadro di divisa mi potrà fermare, nessuna legge mi potrà intimidire, perché questo è il suono della rivoluzione, dal basso in braccio il mio microfono, microfono, microfono, bandente, musica e cultura per la mia gente, per chi non si vende, per chi non si pente, dai, dai, ti stai, ti stai, dai, col freestyle, Artanduro patente, rima dopo rima, esperienza collettiva, contro chi ci vuole zitti, siamo uniti più di prima, resisto due, rap militante dal basso, ascolta e diffondi, alimenta il conflitto, alimenta il conflitto, allerta, allerta, allerta, allarme, allarme, stato di abuso, status killer, conflitto, di abuso, allerta, allerta, killer, allerta, allerta, allarme, allarme, killer, allarme, allarme, killer, status, allarme, allarme, allarme, allarme, allerta, allerta, killer, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, allarme, allarme, allerta, allerta, antifa, antifa. .250 su Radio Blackout, continuiamo con la puntata di Parole Ribelli, ci spostiamo verso l'opposizione alla buona scuola che in queste settimane sta tenendo banco in molte appunto scuole italiane, in particolare con la proposta di mobilitazione che è stata fatta in maniera unitaria da tutti i sindacati confederali e di base del blocco degli scrutini che è iniziato appunto in questi ultimi giorni in concomitanza con la fine dell'anno scolastico. Vado a darvi qualche dato rispetto allo stato dell'arte di questa protesta. Si parla attualmente di oltre 150.000 classi che sono state bloccate appunto in tempi diversi a seconda appunto degli scrutini delle singole scuole, con il 40% degli scrutini che non sono stati svolti, che però ha raggiunto punte dell'80% di adesione a questa forma di protesta nelle scuole superiori. Questi sono appunto i dati che sono stati diffusi nelle ultime settimane dai sindacati. Come dicevo, appunto, le scuole sono arrivate alla chiusura in questi ultimi giorni, ma la lotta proseguirà in vista del voto di questo mercoledì, quindi domani, in commissione, perché a Roma, a partire dal tardo pomeriggio, si terrà al Pantheon una manifestazione promossa dalle scuole con la partecipazione di diversi sindacati, comitati e strutture studentesche e genitori che si oppongono appunto al DDL sulla buona scuola, mentre altre iniziative sono previste in tutta Italia. Quindi questa è un po' la situazione per quanto riguarda il fronte degli insegnanti, che hanno deciso di mettere in campo questa forma di protesta, che arriva appunto, come dicevamo già nelle scorse settimane, in un periodo sicuramente anomalo rispetto alle mobilitazioni. Chiaramente adesso ci sarà la pausa estiva, ma la partita rimane aperta, già ci sono rilanci verso l'autunno, in particolare in questo ultimo fine settimana a Roma, alla Sapienza, si è tenuta l'Assemblea Nazionale di Studout, che su due giorni ha tenuto diversi tavoli di confronto, di discussione sull'anno che si stavano lasciando alle spalle, sulle varie mobilitazioni che sono state messe in campo, appunto da quelle contro la buona scuola, quelle contro il modello Expo e il Jobs Act e altro ancora. E appunto da questa assemblea di Studout sono già usciti alcuni rilanci di mobilitazione. Il più vicino è quello consueto ormai da qualche anno a questa parte, in Valle di Susa, con il campeggio studentesco Notav, che quest'anno si terrà nelle giornate del 3, 4, 5 luglio, quindi ormai alle porte, probabilmente con, come negli anni scorsi, poi con una riedizione prima dell'apertura delle scuole a settembre, ma per ora questo è l'appuntamento. E invece, per quanto riguarda le mobilitazioni nazionali, appunto la rete studentesca di Studout ha già lanciato una giornata congiunta per il 2 di ottobre, quindi in concomitanza con la riapertura delle scuole, con appunto una giornata di agitazione nazionale nei territori, quindi ci saranno cortei, mobilitazioni in tutte le città italiane per proseguire appunto questa opposizione al DDL della buona scuola e dare continuità anche con quanto sta accadendo in queste ultime settimane. E allora, sul rispetto al blocco degli scrutini, vado a farvi sentire una diretta che è stata realizzata ieri su Radio Onda d'Urto e che riprendiamo, in cui si fa un po' il punto della situazione. Scuola, con noi Piero Bernocchi, Cobas Scuola. Ciao Piero, buona giornata. Un saluto a voi. Con te per fare innanzitutto una valutazione su come sono come è andato il blocco degli scrutini della scorsa settimana. Leggevo anche dal vostro sito, insomma, un buonissimo risultato, oltre 150.000 classi bloccate. Sì, tenete conto che c'è un solo precedente, quello dell'87, poi dell'88, dello sciopero degli scrutini Cobas, quando praticamente nacque il movimento Cobas, e poi l'organizzazione, allora però lo facemmo da soli, e poi c'è stato un precedente 5 anni fa, anche quello ce lo siamo fatti da soli e comunque erano numeri nettamente inferiori. Stavolta è stata davvero una partecipazione oceanica alle superiori, dove siamo andati anche oltre l'80%, e almeno in quasi la metà degli studi superiori proprio hanno scioperato tutti, non si sono tenuti scoperti. E i risultati un po' inferiori alle elementari, più che altro perché alle elementari non c'è un vero e proprio scrutinio, no? Si consegnano le schede, si fa una riunione collegiale, quindi è una formula un po' diversa. E il risultato clamoroso ovviamente dipende dal fatto che tutti i sindacati l'avevano alla fine convocato, però anche dal malcontento generalizzato che ha tirato dentro anche tanta gente non sindacalizzata. Naturalmente, dicevamo nel comunicato, non vi basate, ci rivolgevamo ovviamente ai mezzi di informazione, sui dati del Ministero sugli scioperanti, perché quelli non sono dati significativi, perché basta un solo insegnante a scioperare per bloccare lo scrutinio, quindi non è che dovevano scioperare tutti quelli dello scrutinio, però ecco il numero di scrutini non fatti è enorme. E quindi da questo punto di vista siamo usciti benissimo, e mi pare che questo stia ingigantendo la confusione all'interno del governo, che tra l'altro ha preso ieri un'altra bastonata anche a livello elettorale, tant'è che non è neanche sicuro che la commissione scuola riesca a votare entro mercoledì, perché la commissione bilancio, che doveva votare prima i passaggi, appunto, insomma, dove il bilancio c'entra in quella legge, non l'ha ancora fatto, e in più ha il presidente Azzolini che, come dire, questa inchiesta potrebbe anche doversi dimettere, quindi non si sono messi d'accordo, per quello che sappiamo, neanche sugli emendamenti tutto sommato più potabili che ha presentato la minoranza PD, e dunque davvero è al momento impossibile prevedere cosa faranno. Sul serio ne escono ogni tanto delle ipotesi diverse, il rinvio al 2016 degli organici funzionali, la possibilità di spezzare l'assunzione dei precari tra quelli che comunque andrebbero a sostituire gli insegnanti che se ne vanno rispetto a quelli dell'organico funzionale, alcune modifiche che però sono addirittura forse peggiorative sul ruolo dei presidi, però ecco, ripeto, sono tutte voci confuse che arrivano, ci accavallano e ci contraddicono. Noi abbiamo dato questo appuntamento in parecchie città italiane, in particolare a Roma, di mobilitazione 17, e mettiamo in conto se, come pare, il 22 prossimo andrà in aula la legge, sempre che superi le commissioni o che addirittura non saltino le commissioni, perché addirittura persino questa ipotesi è stata avanzata, e poi magari facciano il solito voto di fiducia, ma francamente se questa cosa pure la fiducia lì, potrebbe un rischio enorme, perché a quel punto se non viene data cade il governo. Ecco, anche lì daremo un altro appuntamento, però il calendario della controparte è molto incerto, molto confuso, e sicuramente sono molto divisi, e questo ovviamente è il risultato della mobilitazione che c'è stata a partire almeno dal 5 maggio, che ha dato bastonate serie al governo, a cui poi, ripeto, si sono accompagnate quelle elettorali che secondo me sono piuttosto connesse. Allora, questa era appunto una testimonianza sulla mobilitazione contro la buona scuola e sul blocco degli scrutini. Come sentivate, la partita rispetto al DDL è ancora aperta, e questo è uno dei punti su cui il governo Renzi si sta un po' scontrando, e contro cui la famosa retorica del fare si sta appunto un po' arenando. Sicuramente una forma di mobilitazione ancora molto parziale, in parte tardiva, che però appunto sta avendo il merito comunque di aprire una serie di contraddizioni rispetto al mondo della scuola, e di rallentare un po' la corsa appunto alle riforme del governo Renzi. Quindi vedremo un po' come andranno le votazioni nei prossimi giorni. Certo è che c'è di positivo appunto il fatto di iniziare a porre qualche contraddizione e mettere in difficoltà il governo Renzi, che appunto, come si diceva anche nella diretta, sta facendo fronte anche a una serie di problemi dal punto di vista elettorale con le tornate di queste ultime settimane. Quindi l'augurio appunto è che questo prepari anche un terreno fertile poi per l'autunno, dove non solo la questione della buona scuola ma anche altre saranno sul banco, e speriamo che questo attivi appunto forme di mobilitazione, continui ad attivare forme di mobilitazione anche più partecipate, che sappiano far dialogare insomma i vari pezzi che si stanno mobilitando in queste settimane. Quindi anche su questo continueremo ad aggiornarci anche da questi microfoni nelle prossime puntate. E nel frattempo il 346-667-3263 un cisti ci segnala controllori GTT alla fermata di Corso Ferrucci, angolo via Monginevro. Io adesso vi lascio a una breve pausa musicale, poi proseguiamo con Parole Ribelli. Io non lo so se il tempo che spero è perso, il fiato che spezzo, forse per il successo, forse per parlare di ciò che mi è successo, scrivere e buttare fuori come vomitare sul sesso, ogni sbronza di vita stronza mentre sprofonda.

darlo. Un lugome traccio di dolore e affanno, solo chi ha il potere può cambiarlo. Ma finché il sedere è caldo, sarà per loro più importante della vita di un altro. Modificarlo in meglio puoi scordartelo. Sono parole senza suono, perché loro possono comprarsele e cambiarle come merda in oro. Siamo persi, se davanti a Dio siamo diversi, perché possono pagarle pure lui sta buono. E intanto continuano le guerre nel mondo, alcune dopo due ti ci le scordi in un secondo. Ma avessimo un ricordo per ogni suo morto, il taglio sul cuore sarebbe molto più profondo. È troppo mo, ma il silenzio ora più voce per il prossimo. E grida perché i morti non risorgono, e piange purtroppo perché ogni giorno lo ricordano. Il riflesso lo vedrai negli occhi di un bambino in Kosovo. Sono scene dove nulla puoi dire, in Iraq i bambini non giocano per paura delle mine. Altri cucciono i palloni con i quali i nostri giocano in cortile, farà brividire. Dimmi con che coraggio dormo, se nel terzo mondo i bambini devi spiegare cos'è un sogno. Non c'è il futuro né il domani, c'è che paga. Se che soldi riceve sconti e se ne lava le mani. Cos'è? Che spinge Roma ai suoi eccessi. Chi è? Che paga per i delitti commessi. Ma se votiamo contro noi stessi. Com'è? Che continuiamo a rieleggerci. Cos'è? Che spinge Roma ai suoi eccessi. Chi è? Che paga per i delitti commessi. Ma se votiamo contro noi stessi. Com'è? Che continuiamo a rieleggerci. Allora 12:08 sulle libere frequenze di Radio Blackout, dopo l'aggiornamento sulla buona scuola e le mobilitazioni che vi si stanno opponendo, rimaniamo in materia di riforme targate Renzi e continuiamo a parlare di quella che per ora è una bozza sulla riforma della buona università, che appunto seguirebbe a partire dall'anno prossimo quella sulla buona scuola, di cui già abbiamo accennato nelle scorse puntate. Ad oggi appunto si tratta molto di appunto una bozza, di cui però sappiamo ci sono già stati dei momenti di incontro, di confronto tra il governo e i rettori delle università italiane per cominciare a stilare delle linee guida. Già in questo era emblematico il fatto che il PD avesse un po' smentito tutto, e tra l'altro si nota come quelle che c'era in realtà un documento già preesistente stilato dal governo che ricalca in maniera quasi perfetta quello che poi è il report di questo incontro che si era tenuto a Roma con appunto con i rettori delle università italiane. Questo appunto è appunto di questa riforma se ne parlerà a partire dall'autunno, ma già ci sono insomma alcuni segnali sicuramente che non vanno nella direzione che interessa particolarmente a noi. Però nei giorni scorsi sulle pagine della Repubblica è uscita una polemica tra la responsabile scuola del Partito Democratico, la Puglisi, e i candidati rettori per l'Università di Bologna e di Firenze, che hanno detto che c'è il rischio che il Jobs Act venga esteso all'università, o meglio che appunto all'interno di questo decreto sulla buona università venga inserito anche un adattamento appunto del Jobs Act alle figure professionali degli Atenei. E la risposta della Puglisi è stata: il Jobs Act non c'entra niente con la riforma dell'università, i rettori restino fuori dalla politica. Questo appunto un po' anche emblematico del modo di fare del governo rispetto a questa bozza di provvedimento, in cui come per la buona scuola si fa un gran parlare di appunto di gestione, di confronto partecipato. Ricordiamo quelli che dovevano essere i momenti di confronto sulla buona scuola, che si sono risolti assolutamente in un nulla di fatto, perché la riforma era già lì, gli spazi di manovra sono assolutamente nulli. Però mi sembra interessante che a sollevare questo discorso siano due rettori, o meglio due candidati rettori, e questo fa anche un po' capire il perché di questa polemica, che da un lato appunto è sicuramente condivisibile, nel senso che, come avevamo già detto nelle scorse settimane, questo progetto di una buona università non va guardato in maniera disgiunta dal resto dei provvedimenti del governo Renzi, ma va appunto tenuto assieme a quella che è la buona scuola e a quello che è il Jobs Act, perché appunto un po' il disegno politico che si sta delineando comprende un po' tutti questi aspetti, quindi dal mondo del lavoro giovanile al mondo della formazione. D'altro canto però mi sembra che questa polemica sollevata dai due candidati rettori configuri più che altro uno scontro interno con le attuali figure, appunto con gli attuali rettori dei due Atenei, in particolare con Dionigi, più che una reale volontà di opporsi ai provvedimenti del governo Renzi. Insomma, abbiamo sotto gli occhi quello che è accaduto negli scorsi anni in occasione delle mobilitazioni contro la riforma Gelmini, poi contro il DDL Profumo, e insomma di sicuro quelli che hanno tentato di porre un argine all'avanzare di queste riforme non sono mai stati rettori, che anzi si sono spesso e volentieri posti come insomma l'organo preposto a rendere attuative nel minor tempo possibile questi provvedimenti, e che spesso hanno anche ostacolato in maniera palese le mobilitazioni studentesche. Quindi mi sembra insomma così poco interessante il fatto che oggi siano due candidati rettori a proporre questa insomma vaga opposizione. Mi sembra più un tentativo appunto di accreditarsi a fronte di una loro futura elezione come rettori dei due Atenei, che poi insomma svanirà probabilmente molto in fretta nel momento in cui si saranno accomodati sulla loro poltrona, che è un po' anche quanto è accaduto con rettore Aiani, che dopo insomma il mandato storico di Pellizzetti si era proposto un po' come l'alternativa, come quello che avrebbe cercato di risolvere i problemi ormai decennali dell'università di Torino. L'esempio insomma della questione dell'amianto mi sembra già abbastanza emblematica. Vediamo anzi una perfetta continuità e addirittura una maggiore volontà di rendere tutto esecutivo senza guardare in faccia niente e nessuno, e l'abbiamo visto con insomma le reti metalliche poste attorno al rettorato pur di non confrontarsi con un gruppo di studenti che chiedeva spiegazioni. Quindi appunto, però mi sembrava interessante citarvi questa polemica che appunto è uscita in questi ultimissimi giorni sulle pagine della Repubblica. Lo potete trovare facilmente, titola Puglisi PD, Jobs Act non c'entra con la riforma dell'università. Quindi mi sembrava importante smentire sia sicuramente la posizione del Partito Democratico, ma anche questa polemica un po' strumentale da parte dei due rettori. E a proposito di buona università, se riusciamo adesso prima della chiusura della puntata, facciamo ancora una diretta con una compagna di Palermo, che sta insomma, come molti altri collettivi e come stiamo facendo anche noi in queste settimane, sta provando un po' a districarsi in questa proposta di buona università per cominciare a condividere alcuni ragionamenti in vista dell'autunno. Quindi adesso faccio una breve pausa musicale mentre cerchiamo di contattarla. E nel frattempo è arrivato un sms al 346-667-3263 che chiede informazioni su chi era l'ultimo gruppo passato. Il gruppo erano i One Mic, il pezzo si intitola Chi paga. Mentre il nostro caro Pablo, attualmente recluso in quel di Vinovo e tenuto lontano da Torino dai soliti solerti pubblici ministeri, ci fa una richiesta musicale che esaudisco immediatamente con piacere, e ne approfitto per mandare un saluto e un abbraccio a tutti i compagni e le compagne in questo momento o incarcerati. Di ieri la notizia del trasferimento di Toshi, Paolo ed Erika, e invece ai compagni e le compagne che in questo momento hanno il divieto di dimora a Torino, quindi Pablo appunto che ci fa questa richiesta, ma anche Silvestro e Diego, con l'augurio di riaverli al più presto qua. The timetables keep turning. You got the both ends burning up. And all the lies you've been learning to keep your future more whole. Time keeps slipping. Time keeps slipping. Yo, the only thing major, don't waste the time and bear. My timing is rare. Take time to prepare, no time to spare. Yeah. watch the TV. And yo, 3D, I'm on it like walls with graffiti. From night six to plungers to NYPD. From Lucille to BB King, you see me rhyme. Just stay away from drama if you're wasting your time. Stop that. Keep turning. You got the both ends burning up. Flames got exotic names, I get around. How I'm living now, and that's a whole lot different now from where I'm sitting now. Got a whole clearer vision now. I played the tables hard, wild cards I was flipping now. My partner's sitting past somewhere up in prison now. I'm flipping how things switch and change so suddenly. The way you're at today is tomorrow's where you wanna be. Your company shift when you start living comfortably. My life switching and you dip right from under me. Don't run for me, I wanna be perfectly clear. Time is here, I'm keeping yesterday in the rear. Current affair, most definitely majors appear. About to rock this little ditty with this gritty in here. And it's about that time, so if you could, then would you sit back and look into time, baby? Time keep turning. You got the both ends burning up. Time keep slipping. Awards, cash cards, times a double-edged sword. One day, you hear applause, next day when you leave, you catch your L in the sea, like Christopher Reeves. Okay. Y'all believe that these cats threw dirt on my name? Give him time, he couldn't win if I gave him point game. At time, I used to swerve, now I'm learning my lane. Trapped in time, what a shame, with nobody to blame. The waste for no one, the fat is no one, the rich and no fun. The samurai, the shogun, the first drink and no run. Hey, yo, duh, you better hop to it or you blow, son. Time keeps slipping, make no difference if you don't come. It's real, you won't record it, how he's more than I advise we get on our game and do our thing and spend these moments wisely. It's time to make chase, get paid. No time to waste. First you on and you gone so long you've been replaced. Time tables keep turning. You got the both ends burning up. Time keeps slipping. La scena è sapete che chi vuol parlare. Chi non fa di che può vuol parare. Personalmente me lo grafa. Non vi lo sorrido. E prego, se diverse poi volo. Ecco l'erba verde che mi consolo. Mentre voi merda restate al suolo. Poi guardami sorridere e prendere il volo. Dicono rap a piano che non ce la facciamo. È inutile che mi dici se voglio ritrovo e seguire un missile col delta plano. Apro la voragine, mi muovo agile, facile, agile, stragile, tragiche, pratiche, magiche, tranne me tattiche, facile, natiche, facile, facile. Liricamente non puoi rigirarmi, su un palco faccio paura, dici Ali. Non senti, te l'ho detto poco fa, nella testa c'ho il fuoco fra. Muovi i fili dei versi come i chili persi a Bogotà. Scrivo testi scomodi da quando ho il modo di fare le rime e farti a pezzi fra come il crocodile. La testa gira, chiama l'esorcista ogni volta che un microfono mi registra. Sono il regista del mio trip, man, dove rischio la vista ogni weekend. Ehi, ce l'hai con me? Pensavi di fregarmi invece? Mo' ieri nasco sui palchi, quindi non darmi il tuo bordello. Ci conosciamo, sai come mi chiamo? Magari al primo impatto ti sembro strano, ma il fatto è che non amo più il dialogo umano. Quindi dammi la mano, poi stammi lontano. Aprimi il cranio con un passepartout. Fuoco e fiamme sopra le acque di Lourdes. Rompi i busti, però sei l'amour. Tra volti, frutti dei déjà vu. Ora rap una moda per tutti, lo fanno le groupie, lo fai anche tu. Io faccio rendezvous con i miei droghi, tappo i miei buchi con latte più. Commenta che vuoi che comprenda, rimango da solo ma sono leggenda. Senza il tuo papà, il tuo capo di stato, il tuo capo firmato i tuoi soldi di merda. Narcotizzato, risalgo la vetta, la morte è lenta, mi aspetta, sveglia. Non c'è scelta, ma faccio in fretta, c'è guerra aperta per netta scelta. Apprezza chi ti infama, se basta una settimana e la saga cambia la trama. Se ti ama anche chi ti odiava, qui nada di personale. Puttana, resta nell'area, mi trovi a fare mama, non mama. Coi fiori del male, pensare, quale fama, c'ho fame, fammi mangiare, sharap. :24 sulle libere frequenze di Radio Blackout. Purtroppo in questo momento la compagna di Palermo con cui stavo cercando di mettermi in contatto per questa diretta sulla buona università non è disponibile, ma ci ripromettiamo sicuramente di dedicare un approfondimento alla questione nella prossima puntata, anche con più dirette e più punti di vista. Per quest'oggi direi che chiudiamo qua con le dirette e gli approfondimenti. Sono le 12:24, quindi vi lascio ancora un pezzo musicale, poi come sempre vado a ricordarvi gli appuntamenti della settimana. Compare nos ports, voilà des murs. Tu verras qu'on sait retenir l'amiral, l'enfant de la zone. Que la foule a sous repliée. Nos TM ont des bulles d'air pour rebondir dans la galère élémentaire. Un bon mental, vaut mieux qu'une force monumentale. Opération, carotte de croque et rap quoi de chaîne en or. Pour des sommes, on t'assomme et on risque le mirador. Je suis brouillard, pour un gilda, tu dois sa polka. Tu connais l'entre du cœur et les sorcières sont sous trigla. Le gros d'or, le maître en or. Révolution multicolore, sous des sous un fil dissonant. On surgit pour que la parole soit plus verrouillée. On s'est mouillé pour mettre à mal les idées rouillées. Et si c'est Noah, bordel, gros rap, bordel. T-Max, Token, Air Max, Poker. Chétan, Onel, Réga, son frère. Roloto, Hôtel, Molotov, Corvore, Studio. Après avoir fait un billet, ambiance méga. Maintenant dans le game on y est. Ils parlent de plaquage, de cash, de cash. Et veulent briller, nous on débarque, on clash. On rap et c'est plié. J'emplacine pour le projet de Kenniston, Shootstar Black. Le micro c'est sa prime, tout pour le peuple, son barbal. Des gens comme on en fait plus, toujours entrôner le partage. Pendant qu'on parle de faire sur le carnage. Black qui plaque, black au ventre dingue. Avec un flow qui flingue, dégaine sur le M. Si le shoot à coup de mortier et renvoie de la vie, des commandos expérimentés. Et miné prend la mon high style en fait blasé. Si t'attends d'être pur comme la colombienne, mais l'argent prime son emprisage. Des clins d'œil comme une belle pute. La rage du peuple aux lèvres, j'en brave d'amour. Que les dames nettoient mes chocs, regret ton ciel et toi les m'choc. Second volet, voici le quartier tous répondent à l'appel. Panier, opéra noir et quand je suis à la plaine. Armée de Maïbon, secteur centre-ville. Écoute la zone de parle, écoute bien sur l'aile de ma vie. C'est bon volet, Marseille. Frère répondent à l'appel. Panier, opéra noir et quand je suis à la plaine. Secteur de l'envie, loin de votre abondant. Les nouveaux, les anciens, écoute les MC de mon. révolution urbaine et qu'elle est honte carin. La musique est bise de l'air, aujourd'hui je fais ça avec plaisir. Y'a des bras qui rappent du cœur, tous munis du grand sourire auquel est soumis, le hip-hop qui est la loi dans l'uni. Le respect est en nous répondant pour si ça guérit. Fais pas la peine, juste la mort ou la prison. Tous les jours dans le bâtiment, à croire qu'on est des maçons. La cause nous verte au monde, le camp bouge dans les gants, ça rappe. Trop dans les temps, appelle-moi à son cachant. Aux choses qui nous éparquent, éclatent de la rapurie. Frère, les écoutez pas, ils s'égarent dans l'état du rire. Qu'est-ce que vous foutez là? Vos histoires ne viennent pas vous vieillir. Si soldier du code, pas des causes, c'est la tuerie. Freestyle, punchline, centre-ville, massacre. Mon street team est d'attaque, la rythmique fracasse. Des soucis nous tracassent, donc ça finit en braquage. L'opéra à la plaine, le gant est dans les parages. Je signe la pétition via le coup de pouce de Kenny avec peu de flou. Je délivre un rap, cousse des putains. Strip, crédibilité, centre-ville, c'est ma fibre. Délinquante, musique, frère, sans trop rire, c'est l'Afrique. On vient représenter le centre avec la rage qu'on a dans le sang. Dites-leur qu'on souffre, que le sang soit plaisant, tant qu'on se fait plaisir. Cristal en famille, écoute tes frères et sœurs, ils s'agitent. Ça vient dans le vide, voici la seconde à toute sa splendeur. Yeah, on a plus qu'à perdre, faut plus qu'on tape à perdre. Le doigt sur la pétanque, ça tire des rimes en disant plus aux têtes. Crois pas que Marseille est dead, réglez bien votre antenne. Si ça bosse, bosse dans l'ombre, car y'a pas le chiffre, on est le nom. La tasse a fait a lot of pain. The streets are all the same. Under the sun, under the rain. Everyone is dreaming of fame. Si tu te perds, produit dans le garage, 13 au démarrage. Les skis de retour, une sale équipe avec la rage, yeah. Ça vient de Bulls, ça rappe de plus dans les parages. On rappe l'envie, on n'a pas le temps de faire le truc à l'arrache. Yeah, zone centre, des lignes de canaille. Easy, visa, conflit pour la mise à canard. Audio chief, carnage, M6 en carnage. Marseille, Paul Star, 4 musiques, ma canard. On envoie des rires, on fait des délits plus terribles. On accélère à la messie, dès qu'on arrive on te fait signe. On dédicace les frères, tous les poteaux de la zone. Sur la tête de ma daronne, que les boulons sont les assos. Ce groupe on est voici quartier, tous répondent à l'appel. Pas à nier, on peut pas nous aller, pour chier à la plaine. Armée de maillots, secteur centre-ville. Écoute la zone de toi, écoute les ruelles de ma vie. C'est bon pour les Marseille, les frères répondent à l'appel. Pas à nier, on peut pas nous aller, pour chier à la plaine. Secteur d'envie, on vient votre mondain. Les mots pour les anciens, écoute les MC de mon coin. Terre, les dents par terre, terre, terre, accélère l'air, on tourne dans l'air, on vient de la ZON, se soumettre NON, MDR, LONI, qui vous mère à l'LOM. Marseille, centre-ville, capitale des arrachés, tiens, demande à Kini. Ici, c'est pas pour faire une carte où tu traînes, la jeunesse veut de l'eau. On te vend des sucreries, mais pourtant c'est pas des gros. Kini, je représente, il faut que je tente, monte la pente, la raison pour laquelle je chante, maintenant j'appuie sur la détente. Ça vient de Marseille, là où les jeunes ont fait d'oseille, où maintenant faut dormir avec un col de prix des oreilles. Je rentre sur le beat avec la rage d'un beat. Bang bang sonore, Kenny fait tourner la Wii. Je suis le sourire de la jeunesse, à l'aise dans le 13. Le blasé naisse, même si tu peux pas t'aider. Si c'est trop gosse, du panier record musique. En freestyle, on représente les cousins et cousines. Anti-état comme Kenny, nous on n'est pas des bousies. Tout tiens de nous, là on te bousie. Laisse-moi passer avant d'en placer une classe rude. C'est le land, entre les losers, les pays sont tous. On des marocains, de tour, sans pas les couilles de tout. Le ciel qui guide nos prix, c'est le même tour. Si, j'entends parler les becs, mec. La jalousie, les lots de pute et les patrecs. Crée c'est chaud pour ta cape, ça se flec. Mais tous ces doigts, je leur mère pour une shrek. Quand des distilles deviennent des vrais sortures, ils ont plus de salive, va falloir provoquer la voiture. Le monde est ouvert, c'est peut-être pour ça qu'ils tournent par an. On pense qu'on s'est gonflé, pire des ballons. Plus qu'un placista, on verra la plaine. Diga au bois à l'aime, c'est comme ça qu'on m'interpelle. Venu bourrer avec le cœur, annoncer le 7h. Tous dans la lumière, monsieur l'inspecteur. Toujours présent dans ces ruelles, comme ce virus dans nos veines. Appuie sur play pour le rap game. La partie se joue à Marseille, viens dans ma zone, je te l'ai déjà dit. Veux faire les plaines, je suis la bitch. Et Rally Craig et Maes, pose un big up pour Kenny. Ouais, viens dans la machine, on est là, on résiste. Oye, ben, y'a bien béni dedans. La seconde est c'est pour les frangins, les sisters, les crânes rasés, les rastas. Toi, si t'aimes pas les rues de Mars, tu viens pas du pasta. Second volet, toi, c'est quartier, tous répondent à l'appel. Pas à nier, on paiera nous high, pas chier à la plaine. Armée de maillot, secteur centre-ville. Écoute la zone de parler, écoute les ruelles de ma vie. C'est bon pour les Français, frères répondent à l'appel. Pas à nier, on paiera nous high, pas chier à la plaine. Yeah. Secteur d'envie, il manque à votre affondin. Les mots pour les anciens, écoute les MC de mon coin. 12:31, ci avviamo verso la conclusione di Parole Ribelli. Vado a ricordarvi gli appuntamenti di questi giorni. Per quanto riguarda la serata di oggi, non vedo segnato in agenda la cena all'asilo, quindi non so se sia confermato o meno l'appuntamento. Nel caso scrivetecelo, mentre Per quanto riguarda la giornata di domani, mercoledì 17 giugno, confermato invece l'appuntamento al Mezcal per la cena Bella Vita a partire dalle ore 20. Arriviamo a giovedì 18 nella Blackout House di Via Cecchi 21 barra A. Dalle ore 20 torna la Piola di Blackout con Cibari e Mai, bar e musica dal vivo. Questa settimana sarà il turno degli Small Axe da Pinerolo. Sempre per quanto riguarda giovedì, serata invece informativa su gli immigrati rendono più della droga, campi rom, tra sgomberi e buoni affari, vivere in barriera tra baracche militari e speculazioni. L'appuntamento è dalle ore 20:30 in via Baltea 3, organizza l'assemblea Gatto Nero, Gatto Rosso. Per quanto riguarda sempre la serata di giovedì, per chi invece vuole scatenarsi nelle danze, un doppio appuntamento da proporvi, o al centro sociale Murazzi a partire dalle ore 22 con Big Easy Project, con Pachelo e Parpaglione degli Africa Unite e i Blue Beaters che vi allieteranno con una serata musicale, mentre per quanto riguarda l'area pedonale di Via Balbo proseguono gli appuntamenti settimanali. Questo giovedì torna a grande richiesta il karaoke a cura del collettivo universitario autonomo Canta che ti passa. Dalle ore 21:30 potrete scatenarvi nelle performance più imbarazzanti che vi vengano in mente e disinibirvi un po' con cocktail esotici che potrete trovare al bancone del bar. Arriviamo invece al fine settimana, venerdì 19 al CSA Murazzi dalle ore 23 Electro Night con We Play the Music We Love, mentre nell'area pedonale di Via Balbo sarà il turno del Cineforum. Questa settimana proiezione de Il Doppio Gioco, un film del 2012 di James March, l'appuntamento è già dalle 19:30 con birra e panini, mentre appena le tenebre lo permetteranno ci sarà la proiezione del film. Per quanto riguarda poi sabato 20 giugno, diversi appuntamenti dalle ore 17 presidio sotto le mura del CIE di Corso Brunelleschi. L'appuntamento per il presidio è in Corso Brunelleschi all'angolo con via Monginevro, presidio a sostegno delle lotte dei reclusi solidali con Paolo, Erika, Tosci, Luigi e Marco in carcere perché si sono opposti ad un controllo di senza documenti nel quartiere Borgo Aurora. Mentre per quanto riguarda la serata, area pedonale di Via Balbo, Enrico Cantamale live con apericena, al centro sociale Murazzi dalle ore 23, appuntamento per una serata dalle sonorità hip hop, ospiti speciali Aban Dalegge, DJ Jad dei ex Articolo 31, ma per tutto il pomeriggio si alterneranno diverse crew locali e non solo. Arriviamo a domenica 21 giugno, in occasione della graditissima visita del Papa che tutti aspettavamo da settimane. Se volete divertirvi per tutto il pomeriggio ci sarà una festa itinerante di Senza Dio con la Christ Parade. L'appuntamento è dalle 15 con ritrovo all'Arco del Valentino di Corso Vittorio e arrivo previsto in Piazza Madama Cristina. Per tutto il pomeriggio musica, spettacoli, animazione contro tutte le religioni, caccia al tesoro, assa di reliquie e sindone do it yourself. In caso di pioggia l'appuntamento è spostato sempre alle ore 15 nella parte coperta di Piazza Madama Cristina. Questo è più o meno tutto, quindi giornate ricche di appuntamenti. Adesso vi lascio ancora un pezzo musicale, poi passiamo ai saluti e al GR di Blackout. Mi sveglio calmo tra la savana e i leopardi, in 3D sul fianco della mia sala comandi. Per i contatti io faccio gara con gli altri, in un nuovo show che si chiama Spara i Godardi. Quale bella figa, delle amiche sono Barbie, personalizzate e convertite in ologrammi. Fuori dal mio habitat nel mondo solo drammi. Io devo omologarmi, vogliono controllarmi. Schierati con il vitro, schierati con il litio, schierati con il dito e lo scalpo reciso. Civili con il calco preciso del viso, sistema diviso, i poveri dei ricchi su Elysium. Danno tutti il nuovo Xanax, utile fare. Noi ci ha preso una cascata, sono l'ultime fiale. pecore nel recinto. Spingono per vero quello che è finto. Pompano il cervello fino a riempirlo. Black music. Tengono le pecore nel recinto. Spingono per vero quello che è finto. Pompano il cervello fino a riempirlo. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Dream. Mi risveglio in salotto, do un calcio al mio schermo spaziale rotto. Dico il mio robot di iniziare a girare otto. Ogni sogno qua se può andare bene va storto. Però vado a casa del pusher con teletrasporto. Guerre tra sicari messicani contro i rettiliani. Esperimenti lessicali, architetture verticali. Vogliono farti dimenticare anche come ti chiami. Se sbagli con questi cani fai voli di 20 piani. Acido nell'acqua, zombie comandati. Dalle lobby coi corpi copie, lobby condannati. L'assistenza sanitaria ti manda in coma gratis. Caccia quelli come noi che se ne sono andati. Parlo dai segnali radio, vai moda nell'armadio. Mafia, P3, radio. Ti trammi non posso, voglio aumentare e fallimentare. Sto mettendo da parte i soldi per farti invernare, yeah. Tengono le pecore nel recinto. Spingono per vero quello che è finto. Pompano il cervello fino a riempirlo. Black music. Tengono le pecore nel recinto. Spingono per vero quello che è finto. Pompano il cervello fino a riempirlo. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. Black music. So I end it. Walk with a nigga, I show you the real world. Realer than silver, I'm broke but I still work. Look in the mirror, tell me what you see. All I see is pussy, I'll eat them like sushi. But I must speak, I must crush. I must speak, I must bust. The less deep, such, such. A wee beast can't touch us. Le 12:40 di questo martedì 16 giugno, anche per questa settimana Parole Ribelli vi saluta, vi dà appuntamento come sempre a martedì prossimo dalle 10:45 alle 12:45 per oggi, quindi vi saluto ma vi invito a rimanere sintonizzati sulle libere frequenze di Radio Blackout. Tra pochissimi minuti andrà in onda il GR a seguire la sostituzione di Cattivi Pensieri, e ne approfitto per mandare quindi ancora un saluto al nostro caro Toshi e agli altri compagni reclusi. Noi ci risentiamo martedì prossimo, un saluto e un augurio di buona giornata.